Affrontare un tema circa la ragione per la quale siamo peccatori, con lo scopo di convincere le persone che sono peccatrici, è veramente assurdo. Basterebbe guardarsi attorno per vedere come la gente si comporta, e la risposta l'avremmo a portata di mano. Eppure l'esperienza insegna che vi sono persone che non credono di essere peccatrici. Ho avuto occasione di parlare con alcune persone del Vangelo. E ho constatato da parte loro un netto atteggiamento di rifiuto ad accettare che Gesù fosse morto per i loro peccati, perché, stando a loro dire, non avevano nessuna colpa da confessare. Tali persone sono poche ma non uniche. Così, visto che il Vangelo deve essere predicato ad ogni creatura, non è tempo perso esaminare perché tutti siamo peccatori. Le ragioni per le quali siamo peccatori, o colpevoli, o trasgressori sono tante, ma per brevità ne individuiamo sei. 1. Perché la parola di Dio lo afferma. 2. Perché Dio ha dato una legge. 3. Perché discendiamo da una razza peccatrice. 4. Perché la coscienza lo attesta. 5. Perché C è la morte fisica. 6. Perché Cristo è morto per i nostri peccati. Lo scopo di queste riflessioni non è quello di creare dei sensi di colpa, ma di mettere in luce un male al fine di poterlo in seguito guarire. 1. Noi siamo peccatori perché la parola di Dio lo afferma. Se la parola di Dio non affermasse categoricamente che tutti siamo peccatori, ogni nostro ragionamento sarebbe vano, perché di idee ce ne sono tante quante sono le nostre teste, perciò è più che opportuno lasciare che Dio stesso condizioni i nostri ragionamenti. Non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato inganni. C è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci per spandere il sangue. Sulle loro vie C è rovina e calamità, e non hanno conosciuto la via della pace. Non C è il timore di Dio davanti ai loro occhi. Romani 3:10-18. In questo elenco di mancanze, chi di noi ha cercato Dio di sua spontanea volontà? Se non fosse per lo Spirito di Dio, chi di noi cercherebbe il bene? Questa nostra insanabile inclinazione al male ci rende peccatori davanti a Dio. 2. Noi siamo peccatori perché Dio ha dato una legge. Se non vi fossero le leggi, nessuno di noi potrebbe essere un trasgressore. Infatti, come sta scritto, dove non ci è legge, non vi è neppure trasgressione. Romani 4:15. Fino al giorno in cui non è entrato in vigore la legge di usare le cinture di sicurezza in macchina, nessun automobilista era trasgressore non usandola. Così, dato che l'Eterno Dio ha dato delle leggi civili e morali, leggi riassunte nei 10 comandamenti, tutti coloro che desiderano in modo illecito ogni cosa, commettono concupiscenza, se si adirano contro qualcuno commettono omicidio, se desiderano la donna altrui commettono adulterio. Il peccato non è un'opinione né la morale della società, ma è la violazione della legge di Dio. Non si è peccatori quando ci si sente colpevoli. Infatti, due giovani possono avere rapporti sessuali fuori del matrimonio ed essere sereni, ma lo si è quando si trasgredisce un ordine di Dio. E dato che nessuno di noi è in grado di osservare tutta la legge di Dio, per questo siamo peccatori. 3. Noi siamo peccatori perché discendiamo da una razza peccatrice. Chi di noi non conosce l'episodio di Adamo ed Eva? Purtroppo, poiché la descrizione che ne troviamo nella Bibbia non è ritenuta storica, gli uomini hanno finito con il pensare di non avere una natura malvagia. Eppure sia Gesù che Paolo traggono il concetto di una umanità pervertita proprio dalla disubbidienza di Adamo ed Eva. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Perché fino a che fu promulgata la legge il peccato era nel mondo, ora il peccato non è imputato se non vi è legge, ma la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. Romani 5, 12, 14. La scrittura non considera ogni uomo peccatore per il fatto che pecca, ma perché ha dei progenitori peccatori i quali hanno trasmesso la loro natura malvagia e disubbidente a tutta la loro razza. Noi nasciamo peccatori, viviamo da peccatori e moriamo come peccatori. La differenza tra l'incredulo e colui che vive per Cristo è che il credente è un peccatore perdonato. Vive da peccatore perdonato e muore come un peccatore perdonato. 4. Noi siamo peccatori perché la coscienza lo attesta. Un'altra testimonianza che noi siamo peccatori deriva dal fatto che tutti gli esseri umani hanno il concetto del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto. Qualcuno potrebbe pensare che questo atteggiamento derivi dal fatto che ci sono delle leggi morali create dagli uomini, ma il concetto del bene e del male è innato in ogni persona. L'apostolo Paolo aveva una morale sottomessa alla legge di Dio, ma aveva notato che anche i popoli che non conoscevano le regole morali di Dio conoscevano il bene e il male. Di essi egli scrisse: presso Dio non v' è parzialità. Infatti tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno pure senza la legge, e tutti quelli che hanno peccato sotto la legge saranno giudicati secondo la legge, perché non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Infatti, quando i gentili, che non hanno la legge, fanno per natura le cose della legge, essi, non avendo legge, sono legge a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori per la testimonianza che rende la loro coscienza e perché i loro pensieri si scusano o anche si accusano a vicenda. Romani 2, 11, 15. Chi afferma di non essere un peccatore e come tale perduto dovrebbe seriamente mettere in discussione la sua onestà intellettuale, perché gli è capitato e gli capita ogni giorno di condannare dei comportamenti sbagliati degli altri. Non solo. Tutti abbiamo fatto l'esperienza di rimproverarci cose che non avremmo voluto fare o dire, e questo mette in evidenza la nostra imperfezione, cioè che siamo dei peccatori. 5. Noi siamo peccatori perché cinque è la morte. Le cose comuni non producono effetto nella nostra vita, così è della morte fisica. Siamo tanto abituati a vedere morire le persone da dimenticare che la morte fisica, come sta scritto, è il salario del peccato. Romani 6 e 23. Mentre gli scienziati stanno cercando di spiegare la ragione del decadimento del nostro corpo, la parola di Dio dichiara che la morte è il risultato del fatto che noi siamo peccatori. Noi moriamo perché siamo dei peccatori e siamo dei peccatori perché moriamo. 6. Noi siamo peccatori perché Cristo Gesù è morto per i nostri peccati. Dichiarare di non essere peccatori e come tali irrimediabilmente perduti è la più grande offesa nei confronti di Dio. Si dichiara innanzitutto che la parola di Dio attesta il falso, perché in ogni pagina della scrittura è enunciata la perdizione dell'uomo. L'apostolo Paolo ha riassunto il messaggio di Dio in una esemplare proposizione. L'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. 2 Corinzi 5, 14, 15. Se Cristo è morto per tutti gli uomini, non vi è dubbio che tutti gli uomini siano peccatori e perduti. Ritenersi non colpevoli significa dichiarare implicitamente che Gesù non è morto per tutti gli uomini e che perciò il suo sacrificio è stato inutile per alcuni. Questo significa disprezzare l'opera di Dio e di Gesù Cristo. Inoltre, chi non si dichiara peccatore degno della perdizione fa Dio bugiardo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. 1 Giovanni 5, 10-12. Se Gesù Cristo non fosse venuto sulla terra per subire la maledizione della morte sulla croce, per riconciliare l'uomo a Dio. Gli altri fatti, cioè che la Scrittura si limiti a dichiarare che l'uomo sia un peccatore, che Dio ha dato una legge, che l'uomo discende da una razza peccatrice, che la coscienza lo attesta, che la morte attesti il peccato dell'uomo, potrebbero anche indurre qualcuno a essere scusato. Ma la croce di Cristo ora rende chiunque inescusabile e imperdonabile. Inescusabile perché storicamente è attestato che Cristo Gesù è morto in croce per i peccati di tutti gli uomini, imperdonabile, perché chi non crede in Cristo quale Salvatore e Signore rende Dio bugiardo. Rende Dio bugiardo perché egli ha dichiarato che la vita eterna è Gesù Cristo e senza di lui nessuno può essere salvato. Chi si dichiara senza peccato si crede simile a Dio e degno di stare alla sua presenza, mentre chi si riconosce colpevole ammette che per essere salvato deve accettare l'opera sostitutoria di Cristo. Dunque, la faccenda del peccato è una faccenda molto seria, che da parte nostra non può essere risolta in nessun modo, ma Dio non imputa all'uomo nessun peccato purché creda al suo piano di salvezza. Noi siamo dei grandi peccatori, ma Cristo è il grande Salvatore. Basta accettare le due grandi verità. Settembre 2005, Ellero.